voglio provar se posso sanar l'anima mia dalla piaga fatale. E viver si può senza il tuo strale, non si ha più la speranza. E la gioia nel mio cuore, più tuo scherzo sarà nella mia postale.